Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Una grande intelligenza italiana dell'altro secolo, Francesco De Sanctis, e con questo vi dico buongiorno, diceva: dateci le lacrime delle cose e risparmiateci le vostre. Era un modo antisentimentale di commentare il sentimentalismo, appunto, della peggiore letteratura di quel secolo. Dateci le lacrime delle cose e risparmiateci le vostre. È il caso di ripetere questa frase, di ricorrere a questa formula, in una giornata che dovrebbe essere piena di speranza come quella di oggi, una giornata in cui si dovrebbe celebrare la tregua. La tregua in una guerra spietata, la tregua in una guerra veramente molto profondamente drammatica in modo lacerante, come è stata la guerra di Gaza. Le notizie in un certo senso non esistono se non sei capace di attribuire alle notizie un significato, e la notizia è quella dei bambini, i bambini morti sotto i bombardamenti, i bambini morti durante i combattimenti, i bambini usati come scudi umani insieme agli altri civili dal partito armato e terrorista di Hamas che si era impadronito di Gaza 2 anni fa. Questa è la notizia, ma bisogna attribuire alla notizia un significato. Drammaticamente, in modo spettacolare, oggi con una intervista al Corriere della Sera, una grande scrittrice ebrea-americana, Cinzia Ozick, coglie il significato della guerra dei bambini che ci ha travolto negli ultimi 20 giorni e che ci ha fatto disperare e ci ha fatto recitare la commedia delle nostre lacrime, non delle lacrime delle cose. Cinzia Ozick ha detto: l'Europa ha riesumato la condanna del sangue, una tradizione antisemita iniziata nel Medioevo che accusa gli ebrei demoni d'omicidio. L'antisemitismo è riesploso nel mondo islamico e l'Europa vi si è aggregata come un'orda di lupi. È un giudizio estremo, un giudizio potente, un giudizio gridato, urlato da una persona che sa di che cosa parla, anche per ragioni di biografia personale. Ma è un giudizio inevitabile. Noi dovremmo celebrare tra qualche giorno la giornata della memoria. Noi dovremmo passare dalla imputazione a Israele di avere massacrato i bambini dei palestinesi, loro i responsabili morali, loro i demoni che hanno portato la morte nell'infanzia, nell'innocenza dei bambini palestinesi, al compianto per le vittime di Auschwitz. Dovremmo passare, come insensibilmente e molto ipocritamente, a uno stadio morale in cui compiangiamo coloro che abbiamo definito fino ad ora i carnefici. È un'operazione troppo spericolata moralmente, è un'operazione troppo sottile, troppo europea, troppo legata alla nostra cultura. È un'operazione che ha qualcosa in sé di vergognoso. E Cinzia Ozick dice: non si può celebrare la giornata della memoria. Non possiamo celebrare la giornata della memoria. Ed è la domanda che io vi faccio. Vi sembra possibile celebrare la giornata della memoria, i campi di concentramento, la Shoah, la catastrofe, lo sterminio degli ebrei d'Europa, dopo 20 giorni in cui tutti i principi sono stati rovesciati e la colpa è stata rovesciata, ed è stata rovesciata su Israele e sulla sua guerra di autodifesa? La borsa, e poi cerchiamo di stabilire una piccola verità morale senza mettere in primo piano le nostre lacrime, cercando di estrarre un significato dalle lacrime effettive che vengono dalle cose che sono successe e dal loro significato. L'Europa non è degna del giorno della memoria, dice Cinzia Ozick nella intervista di oggi al Corriere della Sera, e la giornalista Alessandra Farkas le dice: ma Israele è accusata di avere compiuto un genocidio, e lei risponde: come si può usare la parola genocidio per descrivere l'autodifesa di un popolo contro un gruppo che dichiara apertamente di volerlo annientare? Allora la giornalista Alessandra Farca sempre dice: ma Israele sta perdendo la guerra dei mass media. E lei risponde: le foto dei civili palestinesi sono orribili, proprio come quelle dei tedeschi che nel 45 vagavano tra le macerie di una Berlino distrutta in cerca di qualcosa da mangiare. La responsabilità dietro le immagini è la stessa. Come vedete, è la questione delle questioni. Di chi è la colpa? Perché esiste la colpa. Chi è il responsabile di quelle morti, di quei bambini sui quali abbiamo esercitato la nostra pietà, preparandoci adesso ad esercitare la pietà sulle vittime dei campi di concentramento? Monsignor Bettazzi, un vescovo emerito di Santa Romana Chiesa, ha detto che gli israeliani si sono comportati peggio dei nazisti. Lo ha detto ad Assisi, lo ha detto sotto l'ombrello protettivo, l'ombrello mistico, direi, del francescanesimo, di una delle più belle, di una delle più straordinarie esperienze di preghiera, di affetto verso la vita, verso la natura, verso il mondo, verso l'esistenza, che siano mai scaturite dalla Chiesa Cattolica. Ma è un giudizio di cui credo Monsignor Bettazzi dovrebbe rendere conto in un civile dibattito, in una civile discussione con tutti noi. Più seri sono stati la Merkel, Berlusconi, uomini politici che hanno in mano governi e che hanno esercitato una responsabilità, la responsabilità di schierarsi e di dire in mezzo a quelle fotografie, dentro quei sentimenti travolgenti che si sono impadroniti delle nostre viscere, di dire dalla parte di chi stavano. Stavano dalla parte di un popolo e di uno Stato sovrano che si difendono. Parliamone con Fabrizio da Padova. Buongiorno intanto e complimenti per la trasmissione e per la sua intervista. Io rimango perplesso, sarà che io ho visto la guerra circa 20 anni rotti fa. Chiunque abbia visto, anche solo come testimone, non abbia partecipato, si rende conto che la bestia che ha in sé l'uomo esce. La guerra è solo ed esclusivamente atti contro l'umanità. Però, come ha detto Barack Obama, è questo che mi fa riflettere. Se tutti noi che abbiamo figli vedessimo arrivare nel giardino di casa nostra un missile, saremmo felici. Questo è il punto uno. E punto due, come si fa a sedersi a tavolino per trovare un componimento pacifico con persone che vogliono la tua eliminazione? Questa è Hamas. Io credo che la colpa sia esclusivamente di chi non vuole trovare un componimento pacifico e chi non è tollerante. Guardi, Fabrizio, dopo ne parleremo anche a proposito dell'inaugurazione della nuova presidenza americana di Obama, che è la parte, diciamo, invece di speranza, di felicità e direi persino di allegria della trasmissione di oggi. Caro Fabrizio, il problema secondo me è molto semplice. Non ci sarà mai la pace finché non ci sarà una equivalenza politica, civile e morale tra i diversi soggetti in conflitto in campo. Ci vuole la democrazia nel mondo arabo islamico. Nessuno ha ancora trovato un'idea più sostanziale, un'idea più forte, più vera, più in coerenza con la storia del mondo di questa. Finché Israele sarà un piccolo stato guarnigione di democrazia di natura occidentale, fondato sulle libertà civili, circondato dal fanatismo, da una forma di prevalenza di un'idea del sacro come sottomissione, come dettatura divina, finché sarà circondato da stati nei quali si pratica una cultura della forza e un sentimento della forza e non un sentimento della ragione, finché, perché non è la questione dell'occupazione dei territori, i territori una volta non erano occupati, eppure da quando è nato Israele è in guerra con i suoi vicini, no? Non c'era l'occupazione dei territori. Quindi la guerra nasce prima dell'occupazione dei territori e la guerra non finirà mai se non si stabilirà una equivalenza politica, civile e morale. Devono essere società democratiche, anche due popoli, due stati, non basta, due popoli, due democrazie. Se Israele avrà ai suoi confini uno stato islamista, uno stato in cui Hamas ha il diritto di far parte del governo come Hezbollah in Libano, uno Stato in cui chi vuole distruggerla e distruggere non solo lo Stato ma anche il popolo, anche gli ebrei, ha titolo per contribuire alle decisioni. Beh, finché ci sarà questo, sarà una tragica, una grottesca caricatura di un tentativo di arrivare alla pace. La pace non ci sarà mai. Voglio fare un'altra citazione per far capire in che trappola morale siamo finiti nei 20 giorni della guerra di Gaza. Sentite cosa dice Vittorio Emanuele Parsi, che è un professore di diritto internazionale, un cattolico, scrive sulla Stampa di oggi. Nelle quasi 4 settimane di conflitto, Israele si è resa conto che stava erodendo quel capitale di credito e simpatia che era riuscita ad accumulare nei lunghi mesi in cui aveva pazientemente subito i continui lanci di missili Qassam che dalla striscia di Gaza cadevano in territorio israeliano e miravano genericamente ai civili, al popolo che vive nelle città di Sderot, di Ashkelon, Beersheba. Avete capito? Israele ha un capitale, accumula un capitale di simpatia e di credito se pazientemente subisce i continui lanci di missili nel suo territorio sovrano contro il suo popolo. C'è tutto in questa frase, che è una frase rigorosa, realista, che descrive, direi, alla perfezione la realtà del nostro rapporto con quello Stato, con quel popolo. Se subite l'ebreo morto, per questo Cinzia Osik dice non siete degni, l'Europa non è degna del giorno della memoria. Se siete morti, voi ebrei, questo è il vero discorso che il sentimentalismo umanitario sulla guerra dei bambini ha gettato in faccia ad Israele. Se subite, se non vi difendete, se non esercitate la deterrenza verso i terroristi di Hamas, noi siamo pronti a compiangervi, a volervi bene, ma se reagite, se volete invece affermare la vostra capacità di difendervi, la deterrenza, la dissuasione, allora no, allora noi non siamo più in nessun modo, in grado di darvi la nostra solidarietà. Insomma, questa secondo me è la vera tragedia umanitaria da cui siamo usciti. È la frase di Bettazzi, un vescovo, ripeto, della Chiesa Cattolica, che dice che Israele è peggio dei nazisti. Questa è la vera tragedia di cultura politica dalla quale noi usciamo. Carlo da Bologna. Buongiorno a voi. Devo dire una cosa. La prima che devo dire è che non è vero che la democrazia automaticamente risolve tutti i nostri problemi. Gaza è una popolazione che è cresciuta enormemente dopo che c'è stata la fuoriuscita o la cacciata. È una vera bomba demografica nei confronti di Israele, che è uno stato molto piccolo. Gaza non è un campo di concentramento dentro Israele. Gaza è una striscia che sta fra Israele e altri paesi arabi. Dai paesi arabi non c'è stato nessun aiuto concreto nei confronti di coloro che abitano a Gaza. Sono rimasti chiusi in una striscia piccolissima di terreno solo per moltiplicarsi. A loro venivano dei missili, vengono dei missili dai paesi, tra virgolette, fratelli. Ma quando loro vogliono cercare di uscire, andando ai paesi fratelli, vengono bloccati. Non è soltanto una piccola parte del popolo di Gaza che sta con Hamas, è la maggioranza. E certo, quindi, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, Carlo, è la maggioranza che in piena, lo dice anche Cinzia Osik, che in pieno esercizio della propria ragione politica ha scelto di consegnarsi in ostaggio a questa follia, che è la follia terrorista di Hamas. Naturalmente su tutto questo si può continuare a sottilizzare e a discutere, si possono avere ovviamente opinioni diverse da quelle di Cinzia Osik, che invece io sottoscrivo. Ci si può, preparare alla giornata della memoria con la coscienza limpida e pensando che tutto sommato questa è la vera cosa da fare. Io non ci credo, non credo che una persona decente possa commemorare Auschwitz dopo avere inondato Israele nelle piazze con le stelle di David sovrapposte alla svastica, in mille modi diversi, dopo aver rovesciato su Israele di nuovo, come dice Cinzia Ozick, l'accusa medievale di omicidio dei bambini, di omicidio quasi rituale. Ecco, dopo avere infangato Israele, dopo avere espresso compassione soltanto per gli assassini, secondo la formula di questa scrittrice ebrea americana, dopo aver fatto questo mi sembra molto difficile che ci mettiamo a commemorare. Ecco, volevo proprio sentire il presidente Cossiga. Presidente, buongiorno. Eccomi. Io ho detto delle cose un po' estreme, ma penso che siano quelle giuste da dire. Però. Non ha sentito. Ho detto che non voglio celebrare la giornata della memoria e piangere lo sterminio degli ebrei d'Europa, ed è quello che dice questa scrittrice israeliana straordinaria, Cinzia. Non mi sembra una posizione estrema. Mi sembra la posizione giusta. Ecco, dopo le accuse di genocidio rivolte ad Israele. Ma hai ragione, perché l'Europa è perlomeno spaccata in due. La presenza di grandi masse islamiche in Francia ha spinto Sarkozy, che non vuole avere più le beghe della banlieue parigina e delle altre zone a predominanza fisica, diciamo, di potere fisico islamico, e contro quella che è la grande tradizione francese, salvo la dolorosissima e tragica parentesi dello Stato di Vichy, ha assunto una chiara posizione contro lo Stato di Israele. Ecco, la Merkel... A mio avviso l'Europa, invece di parlare male, farebbe bene a fare una cosa sola, tacere. La Merkel e Berlusconi si sono comportati in un altro modo, questo va riconosciuto, sì, e viene riconosciuto oggi. Però bisogna vedere come si comporterà Barack Obama, eh. Ecco, infatti, è di quello che parleremo tra poco, perché sì, anche su questo è lui. Io ho un problema, Presidente. Io penso che senza la democrazia nel mondo arabo-islamico non si risolverà mai il problema di Israele. Sì, penso ma che io questa non idea credo del scusi, che penso che questa idea dell'amministrazione uscente di Bush che la democrazia si possa affermare dello Stato nei paesi islamici, ecco. Lei pensa che non si possa affermare? No. Beh, molti commentatori dicono che questa è una posizione che destituisce, come dire, un'etnia, una religione, una cultura della capacità di liberarsi dall'oscurantismo. Diciamo una cosa, poi teniamo. Loro non possono essere democratici, perché? Che solo nelle aree cristiane, diciamo nel senso culturale del termine, si è affermato il principio della separazione tra Stato e Chiesa, politica e religione. E in realtà anche durante i regimi teocratici o i regimi giurisdizionalisti la distinzione era sempre molto chiara, solo che in un caso la Chiesa dominava lo Stato e nell'altro caso le varie dispute sulle investiture, il giuseppinismo in Austria, era lo Stato che dominava la Chiesa. Ma nella religione islamica la distinzione tra Stato e Chiesa non esiste. Quindi uno Stato democratico si basa su questo, non può esistere. Ecco, Presidente, una parte ma, la fede, Presidente, l'altra la scelta politica. Presidente, ma noi possiamo convivere con questa opposizione irriducibile al nostro modo di concepire la libertà degli uomini e dunque anche la loro capacità di produrre pace. Si può condividere, ma non su base ideologica, su una base di interesse. Come non è che il trattamento che tutto il mondo occidentale fa all'Iran, il quale la bomba nucleare a mio avviso ce l'ha già, e l'Iran dall'altra parte, perché uno interessa a comprare il petrolio e l'altro a venderlo. Cioè occorre trovare un equilibrio sulla base del reciproco interesse, non ideologico. Va bene, nel frattempo occorre naturalmente non esercitare al peggio la nostra ipocrisia. Bene, Stefano Pistolini è il piccolo grande genio multimediale che con la parola scritta alla radio e anche per immagini racconta da 2 anni il fenomeno Obama. Gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono bene e qui stiamo naturalmente passando alla parte che verte sulla speranza della nostra trasmissione dopo un inizio un po' disperato. Lo conoscono bene perché dalle 16 alle 17 Pistolini fa... conduce il programma Jefferson 2 che prima si chiamava Jefferson Ming e oggi puntualmente lo farà alle 4. Buongiorno. Buongiorno Pistolini. Obama è tante cose, in questo momento è un monumento al feticismo di Obama, nel senso che lui, la sua famiglia, le sue 2 deliziose bambine, sua moglie, sono al centro di una specie di festeggiamento orgiastico, il concerto con tutte le stelle del mondo, il treno di Lincoln, la Bibbia di Lincoln sulla quale giurerà, e Lincoln è un punto di riferimento quasi mistico nella politica americana, è il presidente che unisce, il presidente che fa e vince una guerra per la libertà, per imporre un criterio di eguaglianza tra gli uomini, per far finire la schiavitù, quindi un peso, un ingombro potente, la Bibbia, il treno, il concerto, la Chiesa, lo inseguono per ogni dove a Washington, ha trovato o non ha trovato la Chiesa per sé, per la sua famiglia, quest'aria, quest'aura di leadership religiosa che lo circonda, e poi anche piccoli dettagli umanissimi come il cane, il Labradoodle o il Portuguese Water Dog. Uh-huh. Quale cane prenderà? Prenderà un cane di razza? Prenderà un cane da un canile? Da un rifugio? E il, lo nome riscatterà? Del cane? Il nome del cane? E il nome del cane, insomma. Obama in questo momento è veramente la speranza anche nella forma più curiosa, tipicamente americana, insomma nessuno ha mai... sottovalutato la vena di follia che c'è in America. Vorrei sapere da lei e dal presidente Cossiga, che è in attesa cortesemente uh-huh. telefonica, ma un'idea per risolvere le grandi questioni del mondo, cioè la pace e la crisi economica. Obama ce l'ha. Perché è anche un presidente di guerra, non ce lo dimentichiamo. Il presidente che entra in carica domani è a tutti gli effetti un presidente di guerra. Credo che l'idea dell'uso del passato, l'idea della mobilitazione psicologica, l'idea di un'approvazione che oggi raggiunge l'85% degli americani che dicono che ha condotto bene la transizione, ha fatto il meglio che poteva essere fatto per rimontare una amministrazione. Il 68% degli americani si dichiarano eccitati o felici dall'arrivo di Barack Obama. A mio modesto parere, in un paese nelle condizioni in cui versa adesso l'America, ottenere un risultato di questo genere, io la definirei una grande idea, oltre che una formidabile temperie psicologica da cui partire. Ha molto consenso, ma ha un'idea, secondo lei? Ha un'idea per sistemare le cose, per mettere in pace il Medio Oriente, che sarebbe già un modo di curare la più straordinaria, la più terribile infezione che in questo momento lo spirito di guerra introduce nel corpo del mondo. Ce l'ha questa idea? Sentiamo un attimo il Presidente Cossiga. Certo. Dunque, non mi meraviglia quello che sta succedendo in America. Non dimentichiamoci che l'America è una repubblica presidenziale e una grande democrazia, ma è un paese degli eroi. I presidenti americani o sono degli eroi o sono dei mascalzoni. Il presidente degli Stati Uniti è stato sempre, come possiamo dire, per gli uni un eroe e per gli altri un mascalzone. Un cretino. Adesso il 68% degli americani considera Bush qualcosa di mezzo, Bush figlio, Bush padre, in realtà era un'altra cosa. Il 68% degli americani forse più considera Bush a metà tra un cretino e un criminale, indecisi se fosse un criminale perché cretino, se fosse cretino perché criminale. Ecco, però Presidente, Bush un'idea ce l'aveva, l'ha espressa con molta chiarezza nel discorso inaugurale del 2004. Ha detto, l'America ha un ruolo di guida nella estensione nel mondo della libertà e della democrazia, sì. E questo è l'unico modo per estendere la pace. Sì, dunque, ma lei... Obama ce l'ha un'idea? Non credo lei. Che ce l'ha. Non ce l'ha. L'idea forse a questa amministrazione, se c'è, gliela darà per interposta persona Clinton, che in materia di guerre non era certo inferiore a Bush. E io ho assistito personalmente, mi scusi se posso dire questo, ma quando Clinton decise l'intervento unilaterale contro la Jugoslavia, cioè contro la Serbia, beh, a chi gli chiedeva ma non c'è il Consiglio di Sicurezza rispose: ma se aspettiamo il Consiglio di Sicurezza, quelli lì, cioè i serbi, ai nostri, cioè ai kosovari albanesi, ci li ammazzano tutti. Ecco, Presidente, io vorrei dire una cosa semplice. Sì, non è una cosa che mi è stata raccontata, una cosa che ho ascoltato quasi con le mie orecchie. E lo credo bene, lei è uno statista, quindi le cose le ha viste da vicino. Però, Presidente, la cosa che vorrei dire è questa. Come mai il principio di realtà non viene riconosciuto da così tanta gente molto per bene, da così tanta gente? Il principio di realtà, cioè è stata fatta la guerra contro Milosevic e i Balcani sono entrati in un'era di relativa pace. È stato eretto un muro contro il terrorismo ed è stata esercitata la dissuasione e la deterrenza contro i terroristi ed è finita l'intifada dei suicidi, dei terroristi suicidi in Israele. Cioè, che a un certo uso della forza possa corrispondere, quando questo uso è intelligente, quando questo uso è politicamente credibile, poi una soluzione dei problemi, nessuno lo ammette. Guardi, tenga presente che il grande filosofo della realtà, Tommaso d'Aquino, è citato da molti, ma è conosciuto da pochi. Facciamo un esempio. Beh, ormai è dottrina comune che gli alleati, come si chiamavano, gli anglo-americani, abbiano lottato per la libertà e abbiano strappato al male assoluto il nazismo l'Europa e forse il mondo. Ma non dimentichiamoci che questo lo fecero a prezzo, oltre che di una caterva di morti propri, con i bombardamenti terroristici sulle città tedesche e prima sulle città italiane. Tanto erano terroristici quei bombardamenti, aventi cioè lo scopo di fiaccare la resistenza morale e psicologica delle famiglie e poi degli eserciti, che in Inghilterra, paese della democrazia e della libertà, si è discusso se innalzare una statua o meno al comandante in capo dell'air bombing, cioè delle forze strategiche dei bombardieri britannici, i quali, questa è una cosa che ci dobbiamo ricordare, rasero al suolo e bruciarono con 60.000 morti Dresda il giorno prima che fosse dichiarata la resa della Germania alle potenze anglo-americane, all'Unione Sovietica, e si discute se lui lo sapesse già o meno, per vendicare Coventry. Cioè, la guerra è la guerra. Le faccio un esempio. Io sono nato e sono stato allevato durante il fascismo in una famiglia antifascista, e io mi dichiaro ancora antifascista, non per nostalgia dell'antifascismo, ma così diciamo, perché ormai ce ne sono pochi che si dichiarano antifascisti, anche se antifascista è oggi chi approva Mase, ecco perché c'è questa strada. Cioè, oggi il fascista è anche a favore di Israele, e l'antifascista vero è colui che è kamikaze, insomma. Ai miei tempi era diverso, non si poteva essere antifascisti se non si era contro il nazismo e quindi se non si era schierati a favore degli ebrei. Ora, le cose sono, lei pensi, insomma, uno dei motivi di divisione all'interno del PD è tra filo israeliani e anti israeliani. Sì. Io ho cercato di evitare, Presidente, di entrare nella polemica politica domestica. No, ma io voglio fare un esempio. Cioè, sì. nel 40, nel 41, nel 42, per quello si sapeva, nella mia città, che era una città di antifascisti, che ha dato la vita a Berlinguer padre e figlio, a Stefano Siglienti, fondatore del Partito Azione, e potrei aggiungere a mio padre, uno dei fondatori del Partito Sardo d'Azione, e così via. Essere antifascisti doveva essere a favore degli ebrei. Mi spiego. Certo, certo. E le cose sono diverse, ma guardi nella Chiesa Cattolica. Nella Chiesa Cattolica c'è la stessa divisione. Certo. Ecco, la Chiesa Cattolica si è espressa con le parole anche del Vescovo Bettazzi. Lei cosa ne pensa? Israele peggio dei nazisti. Sì, ma teniamo presente una cosa, che la tradizione antiebraica è una tradizione lunghissima, che è stata spezzata dal Concilio Vaticano II e poi da due papi, da Giovanni Paolo II, la sua famosa visita alla sinagoga. E da Benedetto XVI. E da Benedetto XVI, che ha visitato la sinagoga. Quindi secondo lei queste dichiarazioni... La famosa Cristella. Secondo lei queste dichiarazioni su Israele fanno parte di un antico riflesso e di un'antica tradizione antigiudaica? Che è rimasta in molti. Va bene. Ma c'è anche un altro motivo. Grazie, grazie Presidente. Grazie molte per il suo contributo di oggi. Grazie, arrivederci. Sì. Pistolini, eccoci. Allora, il significato vero di tutta questa roba che molta gente può prendere per paccottiglia. Che cosa significa il fatto che in questo momento di crisi economica internazionale, in questo momento di guerra, lei ha ricordato che Obama è un presidente di guerra, si inaugura il primo mandato di questo giovane afroamericano che non ha neanche 50 anni, che ha vinto in modo smagliante dopo una cavalcata politica che gli storici ricorderanno come la più sorprendente, forse, certamente, la più straordinaria degli ultimi 100 anni. Uh-huh. Ecco, cosa significa tutto questo apparato di coreografia spettacolare che sta intorno all'inaugurazione del mandato di Obama? Perché il trenino? Perché appunto il feticismo delle piccole e grandi cose che circondano? Qual è il messaggio? Qual è il senso di comunicazione in tutto questo? I messaggi sono tanti. Obama ormai, come dire, sulla rampa di lancio di un successo straordinario, poi sta costruendo lui e soprattutto i suoi strateghi giorno per giorno la rappresentazione. Ormai non hanno più paura di nulla, voglio dire. Il trenino lincolniano, insomma, non era una cosa facile da maneggiare, l'hanno maneggiata anche con una certa sapienza. E poi abbiamo sentito che dentro il trenino, con gli ospiti, i familiari, gli amici, si parlava del tempo, come nei nostri trenini, no, dei pendolari. Io volevo tornare un attimo alla domanda che faceva prima Ferra sul metodo. Qualcosa è stato già detto ed è molto presto, perché Obama non è ancora presidente, e quindi vorrei sottolineare che una mossa è già stata fatta. È stata fatta da Hillary Clinton in sede addirittura di approvazione del suo mandato, quindi questa amministrazione, costruita secondo me in modo peraltro piuttosto straordinario da Obama per la qualità delle persone coinvolte, già parla quando ancora non è in carica, e non è capitato molto spesso. Le dichiarazioni di Hillary Clinton, che poi è una brava studentessa che si è presentata preparatissima all'esame, hanno presentato al mondo e agli americani un metodo possibile, addirittura un'etichetta, uno slogan, smart power, no? La forza della diplomazia, la forza del potere intelligente, contrapposto a quanto successo prima. Insomma, una linea, un'ispirazione, cioè sono teorie, perché domani comincia tutto. Domani incomincia tutto. Beh, questa dovrebbe essere la frase a suggello di una grande speranza. Possiamo avere anche noi un presidente e una leadership che abbia quella forza, quel significato, quella pienezza di significato che ha un Obama? 800 24 00 24 è una ulteriore domanda che rilancerei in onda anche per i radioascoltatori. Non vi piacerebbe avere un leader non all'europea, cioè costretto a mille arabeschi, a mille labirinti per arrivare a una mezza verità? No, un leader che magari, come diceva prima il presidente Cossiga, poi affonda, certo, nel fango della disistima generale, oppure viene elevato allo statuto di semidio, eccetera, ma che comunque ha un'impronta di trascinamento, un'impronta direi proprio quasi religiosa, di leader di una comunità che la mette insieme, che la rende coesa, che in senso etimologico della parola religiosa. Ma poi questo fatto che l'umore di una nazione un giorno è al 30%, il giorno dopo all'80%, è una sensazione, sì, particolare. Questi grandi cambiamenti. Insomma, domandiamoci, si potrebbe anche in Italia, perché recentemente Berlusconi, evocando il presidenzialismo, che è il fantasma segreto della politica italiana, questa questione l'ha posta. Inaugurazione del presidente Obama. In un mondo di guerra e di crisi economica, ci chiediamo: queste leadership, questi poteri forti, non sono preferibili in tempi di emergenza? Il tema del presidenzialismo, quindi appunto di un potere esecutivo controllato da un forte potere parlamentare aggressivo come quello del Congresso americano, quel tipo di sistema politico non è più adatto a tenere in pugno una situazione di emergenza che per certi aspetti sfiora tonalità apocalittiche come quella del mondo globale oggi? Bisognerebbe riflettere. Eppure, quando è stato rievocato il presidenzialismo, ma così un po' per sbaglio, in risposta alla domanda di un giornalista alla fine dell'anno scorso, è nata subito una discussione con i soliti riflessi condizionati. I riflessi condizionati erano quelli tipici, cioè il presidenzialismo è una riedizione del fascismo, è una forma di compressione della democrazia, è un modo per sostanzialmente svilire, svuotare le istituzioni che tutti amiamo, dovremmo amare, prima di tutto il Parlamento, i partiti, l'insieme, diciamo, di quella che viene chiamata da fior di reazionari la democrazia discutidora, la democrazia che discute. In Obama c'è questo tratto, molta democrazia, perché l'esame a cui viene sottoposto un presidente americano è pazzesco. Per 2 anni si sa tutto di lui, tutto viene messo in piazza, viene votato 50 volte in ciascuno degli stati in elezioni primarie, eccetera. Grande democrazia, però anche grande potere. È il comandante in capo, è l'uomo che attraverso uno staff, non un governo di cui non può neanche revocare i ministri, fa la politica della nazione. Ed è anche l'uomo che ha una moglie. Siamo in collegamento con Marilisa Palumbo, autrice, buongiorno, autrice del libro Yes, She Can, sì, lei può, dedicato a Michelle Obama. Questo è il momento in cui il presidente, la sua famiglia, la sua spiritualità personale, la sua carnalità, il suo rapporto di coppia, persino il suo rapporto d'amore con una donna e con 2 bambine, sale sul proscenio, perché il presidente è una specie di re dell'immaginazione collettiva americana. Com'è Michelle Obama? Michelle Obama è una donna molto interessante perché qualcuno l'ha definita post-femminista ed è un mix, qualcuno ha detto, tra Jackie Kennedy e Hillary Clinton. Jackie per lo stile, insomma, è stata molto imitata, molto osservata, e Hillary Clinton perché è una donna forte, istruita e che sicuramente ha molta influenza sul marito. Però a differenza di Hillary non rivendica un ruolo politico. Direi che c'è una differenza, signora Palumbo, decisiva anche. Jackie Kennedy e Hillary Clinton erano 2 mogli raffreddate dal punto di vista del rapporto d'amore con, esatto, i loro mariti. Esatto. Ecco, mentre Michelle lo bacia, lo ama, vuole... La funzione della First Lady, perché nel potere presidenziale americano, nel modo di essere affezionati a questo sistema politico che ha al centro questa figura così importante, che però il Congresso può eliminare in qualsiasi momento con una procedura di impeachment, perché c'è una donna, una First Lady, che ha questo ruolo e questa importanza? Perché è un po' appunto come un re, quindi è la First Lady, è la regina del paese ed è importante. Sarebbe forse impensabile pensare a un presidente single o solo alla Casa Bianca. Infatti nella storia, diciamo, in casi di vedovi o divorziati c'era una figura femminile che potesse essere la sorella, per esempio, perché diciamo è la coppia che viene identificata in questo momento di crisi nel paese. Io credo che l'immagine di questa famiglia moderna, molto unita, giovane, sia un messaggio importante in sé, e diciamo per la prima volta, come diceva lei, penso da anni, entra alla Casa Bianca una coppia innamorata, lo si vede dal linguaggio del corpo, nelle loro interviste, e il loro legame con le bambine, la lettera che lui ha scritto qualche giorno fa alle figlie. Insomma, è un modello molto importante su cui Obama ha sempre insistito anche in campagna elettorale, quello della famiglia, perché pur essendo, diciamo, il presidente del cambiamento, dal punto di vista dei valori è molto tradizionale e molto conservatore. Ecco, però non è stato sempre così, Pistolini. Lincoln, a parte che si diceva che fosse omosessuale e che giacesse con i soldati... Era malinconico, non omosessuale. Malinconico? Sì. No, beh, si diceva questo, è una delle tante ipotesi storiografiche fatte dai suoi biografi. Dormivano tra uomini. Dormivano tra ragazzi, insomma, nell'esercito. Ma dico, Lincoln non era una coppia, era solitario, era un profeta solitario. Beh, Mary Todd c'era, grande cuoca, grande presenza, raffreddata, come dice lei Ferrara, ma sicuramente era un grande solista, insomma. In che cosa questo riferimento a Lincoln può aiutarci a decifrare Obama e a capire se Obama potrà veramente curare i mali di questo momento? Nella profondità del richiamo allo straordinario destino degli americani, che è intensissimo, è stato ribattuto per 2 anni. Io vorrei vedere se un politico italiano capace di sopportare fisicamente, psicologicamente, intellettualmente ciò che Obama e quelli come lui in passato hanno sopportato, cioè 2 anni di a tutti gli effetti predicazione, nel senso più positivo della parola, a un paese. Ha parlato e al termine arriva questa incoronazione. 2 anni autorizzano un presidenzialismo, secondo me. Alessandro da Roma. Pronto? Pronto? Mi sentite? Sì, Alessandro. Sì, siamo qui. Buongiorno. Io volevo innanzitutto ringraziarvi per aver preso la mia chiamata. Sì, ma questo non ha importanza. Andiamo avanti, dica la sua opinione. Sì, volevo semplicemente dire che credo che un politico del genere, di questa importanza in Europa, sia un po' impossibile, in quanto io ho occasione, ho modo di vedere i nostri dibattiti come assolutamente pieni di ideologie. E ancora dibattiti così ideologici non credo appunto possano in nessun caso condurre a leader politici che possano con grande quindi forza. Quindi è un atto di sfiducia razionale, sì. Diciamo, di pessimismo della ragione sulla possibilità di introdurre il presidenzialismo in Italia. Sentiamo Enrico da Firenze. Poi sottolinea grazie, che è bravo, che è una gran cosa, che è bravo, che sì. Obama è bravo, questo è importante. Enrico da Firenze. Sì. Sì, buongiorno. Io diciamo accetterei il presidenzialismo, diciamo così, in concetti massima, sempre che contestualizzato un po' diversamente, ossia dire oggi come oggi non è assolutamente accettabile, a mio avviso, l'idea che un presidente possa farsi scudo, diciamo, di questo suo titolo, questo suo ruolo, per poi farsi un po' troppo gli affari propri. Cioè questo avviene quando si è a capo di governo, figuriamoci poi se con un potere ancora più forte questo non avverrebbe in maniera ancora più discriminante, ancora più potente e senza che ci siano... Ecco, però in America hanno individuato, adesso mandiamo un breve sonoro del presidente Giorgio Napolitano, abbiamo avuto ex presidenti eccetera, hanno individuato l'antidoto, il modo di fare attenzione a che un presidente non si faccia i fatti suoi. Prego. Qualsiasi posizione culturale o politica favorevole a più drastici mutamenti del modello di riferimento della seconda parte della Costituzione repubblicana può essere legittimamente sostenuta nel dibattito pubblico, ma siffatti eventuali mutamenti vanno colti e prospettati nella loro complessità. Le loro implicazioni e le loro incognite non possono essere eluse ed è bene rifuggire nell'ipotizzarli da semplificazioni e miracolismi. Un problema di equilibri istituzionali si pone comunque in un sistema democratico. E negli Stati Uniti, nel sistema presidenziale per eccellenza, opera un forte Parlamento, opera un insieme di controlli e bilanciamenti che ha fatto grande la democrazia americana. Ecco, parlando solennemente nel 60° anniversario della Costituzione italiana, Napolitano ha detto un metodo c'è, se vogliamo il presidenzialismo si può fare, ma ci vuole un Parlamento in grado di destituire il presidente in qualunque momento. Grazie, ci sentiamo domani alla stessa ora.